Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Giovanni. Tony. Luca Flipper. E che bava! Caldo ce n'è! E che bava! Ah, ce n'è caldo! Ehi, caldo c'è caldo! Mamma mia, come sto! Speriamo che forse leva! Speriamo bene! Beh, Dio Maria, ho già andato in campagna! Ehi, la campagna, dai, tanti verdi, non so cos'è vero, si è fuggita! Ehi, già sei principio, non ti preoccupare! No, c'è un po' di aria, ma c'è sempre caldo, cazzo. Boh, non si riesce a tornare alla normalità. Ehi, già rinfresca. Non siamo mai contenti. Quanti calci, volevo freddo, boh. Quanti freddo, volevo un calcio, non siamo mai contenti. Boh. Oh, yeah. Sì, ma infatti, poi quando piove non si può uscire, non si può andare da nessuna parte. Ehi, prendiamo quello che passa al convento, già va bene. Non vedi più in oggi? No, c'era Manuele su 23, ma è Tore, si deve essere assentato. Ah, kappa, vabbè. Va bene, dai, già ci sentiamo dopo, che mi faccio una docetta fresca. Ciao, Dio Marì. Ok, ciao. Luca, ci sei? Io ancora invalido, sì. Avanti. Ecco, di grazia. Non ne ho sonno. Me lo bei. Grazia. Ancora vivo, sì. Già esco. Eia. Cosa vuoi fare? Hanno rivisto i compiti. Ehi, vedrai, se c'è la medorra, che ciocca, Ehi, ma che non lo dia a paura. Per forza, le discoteche è inutile, non lo va più. Come fai a rimanere distante in discoteca? È impossibile. Prima fanno arrivare cani e porci e dopo stanno lì a rompere le palle, corona qui, corona là, ma vada a far culo tutti quanti. E poi tutta quella gente, boh, il mare ha fatto vedere... Parla bene! Ma cazzo, belli tranquilli, chissà cazzo quindi so, va, contagiate e magari non ne sanno ne manca, anche se quando si intendono più mari. Ui, vedrai che stiamo andando da bene al peggio, dal peggio al male, per carità. Ma mi sa che è una cosa fatta apposta, preliminare un bel po' di popolazioni, a chi dice che siamo troppi in alta la terra, troppa gente. Dunque ci hanno studiato il metodo popolazione, un po' con bei. Aspetta che prendo il piedistallo, oh, grazie. Già son qua. E la cagine. Ah, chi sono temporale che ne rivende anche per Graziano in radio, così è. No, veraggio comandato io, a finire più qui. Ciao, grazie, buonasera. Ricambiata anche a te, così un po' in campagna, il fondo di sta terra che è secca. Ehi, adesso che non affiende tutti i lì, ma la futta sai e leva. Non mi interessa. Ciao, buonasera, ben sentito. Chi era l'altro? Manuele? Sta prendendo il piede stallo, quale figlio di un piede stallo? Se li fa vedere, non sai che un carino li fa vedere. Manuele Ginco, Già lo so che la mano. Ma secondo me non piove, mi è tutto fuori via, non si vede, dai, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non si vede, non Ma qua c'è un'aria che non promette niente di buono, non lo so. Comunque, se piove già fa bene, allora anche non è innaffio domani. Beh, se lo credo, se ci vuole un po' d'acqua, così rinfresca, perché avviare quattro zinzi. È pieno di zinzi, è normale, la roba di zanzare ci sono quest'anno, cazzo, beh, oggi ho compreso bagogia. Non v'è mocca, è tutto pieno di zinzola. Ho già dato col coso la medicina, già tre volte, buh, più la lei più ingrassani. Poi è pieno qua. Io ho dato nel vialetto, sotto la veranda, dentro, da una parte, là, dove no. E c'è anche l'affare che si ammazza la zizzola, è sempre zzzz, sempre attaccato. Non lo so, e con le luci accese, capito? Sono le luci del vialetto accese, sotto la veranda è sempre tutto illuminato. E chi c'è il problema? Attirano le zanzare. Ma non ho preso uno grazia, quei nastri. Cosa vuole i nastri? Gli appendi sotto la veranda, non proprio dove si sbatte la testa, e un po' appartati di me, perché poi fanno schifo, poi attacca pure la bocca. Non lo sapevo, è una cosa che non conosco. Mi devo informare a vedere. No, vogliono te lo cudere un gabbo da me alla veranda che è alta più di 2 metri. Si è messi a 2,30 metri, 2,40 metri, quindi. Un po' 8 metri longa. Uia, uia. Manuele. Sono dei nastri adesivi. Sì, lo appegna alla veranda. Io ne appendevo sempre 4 negli angoli vicino ai pilastri lì, quelli non andavano fatti. Avrei un paio di lire di viaggio a macchina almeno di bocca di zizzola, che insomma tutti gli stessi che ci andavano lo rimanevano appiccicati. Beh, ma da che cosa viene attirata? Cos'è? Una golla? Cos'è? Mafia Gugio, No, cioè, non è Mafia Gugio, sono profumato. C'è una colla, è impasticciata di questa colla, potente. E più c'ha, no, c'è un bello un buon odore, là. Ah, ho capito, ho capito. No, ci abbiamo anche quelle spiralette, no? Che si accendono, ma fate un fiago, un fumo, che fa... Bah, lascia perdere. Va bene, va bene. Solo G, a parte Ginko, chi c'è? Ah, l'ho accesa adesso anche la poco seduto. Quella lampada che funziona con Bluetooth per la musica. E nelle ritirelli a chi verrà via 2 ore e più a 6. E fa le luci e le canzoni, no? Con Bluetooth dal telefono. Mamma, stanca della garibata, va. Ehi, anch'io mi ho acceso poco fa. Ho fatto una carrellata in V e in U e poi mi sono fermato qui, agiteso a te, fa vedendo. Va bene, va bene. Ehi, ancora tra settimana poi. Ce ne rientriamo alla base. No, a me giovedì mi dovrebbe arrivare la moto dal Regno Unito, me l'ho comprata a Roma, come posso che giri in moto? Ma moto grande? No, è di scooter che ha 3 ruote e l'ho pagato 2.800 euro, ma però è bello, qua non ce n'è, l'ho ordinato dall'Inghilterra e mi arriva dal Regno Unito, va. Mi dovrebbe arrivare giovedì, stavo guardando l'email e per scritto è in consegna. Ah, è quella 2 ruote, a 3 ruote, già ho capito quello. Già va bene, già va bene. Kappa kappa, iaia. Ia. Sì, grazie. Cazzo, sono da da quasi fine luglio, da più di luglio, dai, qua, capito? Da luglio, lascio quelli zen, da fine giugno, so, da fine giugno. Quindi adesso finite le ferie, anche perché io poi il 24 lunedì rientro al lavoro, diciamo, a dare una mano a mio cognato, quindi ce ne rientriamo alla base, se no sto cascando i torrenti. Io quando ero in campagna facevo dall'inizio dell'estate fino a settembre, ottobre. E poi mi innalzava, chi se no devia sempre viaggiare, sempre, vabbè già, non è lontano, è a Monte Oro, però un po' di volte non navigare è fastidioso. A Monte Oro, dove ce l'hai tu la campagna a Monte Oro? Io sono qua, regione Balcone, usandie. Su a tutti, poi prendi quel viottolo che finisce l'asfalto, imbuchi quel viottolo, che è stretto, non so se lo conosci, e arrivi all'incrocio della chiesa di Santa Antonia e svolti a destra, proprio sul cucuzzolo, o c'è l'antenna. Cazzo, ma vuoi vedere che sei a dare da me, tu io manco ne già vivo. Io sono dove c'è il ripetitore della RAI, 50 metri dal ripetitore, praticamente io la strada, sono sulla strada asfaltata. Prima di imboccare quella non asfaltata, il primo cancello a destra. Ma io posso passare dalla salita di Monte Oro, quella che va la strada a vita, diciamo. O posso passare da lì, o se no passo anche da Canica, faccio tutta la salita di Santa Landoria e proseguo sempre dritto. E arrivo quasi dove finisce la strada, che poi ci rimane un chilometro neanche, solo non c'è più strada e inizi proprio la landriga. Aspetta un attimo. Ehi, hey, you. Gio' Mari, cerca di defendi. Manuel. Ehi. Ciao, sai che ero senza antenna. Senza antenna. Mi sono dimenticato a fare la commutazione, cazzo, meno male. Ma bisogna stare a te, prima di provare una cosa, bisogna guardare la commutazione. Cazzo, un casino, cazzo. Torna a passare un attimino, dai, che adesso ho girato l'antenna. Ehi. Beh, grazie. Beh, ciao a tutti, chi è in ascolto, alla prossima. No, grazie, scusa che ero al telefono, già ci sentiamo un altro momento, ciao. Niente, tanto sto facendo qualcosa, adesso mi sono levato la tenda solare, prima se la buccia al vento. Ciao! Ciao, grazie, alle prossime. Grazie! Manuele! Allo? Manuele! Perché qua sei? Luca! Miau! Luca, ci sei? Chi è? Miau! Marino, sì. Eppa! Ehi, Giovanni! Ah, ti parido, sì! Ehi, me l'ha sentato, c'è la gente a casa. Oggi vedo, richiedi? No, ce l'ha venuta la gente a casa. Ah! Ho capito. Ti ho mandato la foto, hai visto com'è? Ehi, andava. Ma di cose, magari io non vorrei toccare quasi niente perché, già lo sai, senza antenna e c'ho un po' di delicatezza. Mi sembra che domani te lo porto e lo faccio preciso al tuo. Ma non c'è bisogno dell'antenna, Gio' Mario, l'antenna non fa nulla. L'importante è che le impostazioni siano giuste, va bene così adesso. Quando mi ha mandato quella foto lì, basta che schiacci quel pulsante lì, ti dà compressore senza compressore, boh, che l'hai fatto. Ed era una bomba come modulazione, non c'era altro da capire. Vabbè, allora lasciamo così, va. E lo proviamo quando piazzo l'antenna, va. E vediamo un po'. Bene. E allora? A rimasto da un cane, sono riuscito, mi pare che gli acqua caffa Eva, però è boh, è cupa l'aria. No, no, non l'ha messo acqua, no. Ma sai, il tempo può girare. È caldo c'è, nonostante che il nuvolo c'è molto caldo, per cui non so, fa un bel caso. Cazzo, ma a caso però. Beh. Aveva un po' carino in treni, l'arietta, ed è freccaburo, e già che ha fatto i biasini, gli mi fa il terreno magari, e tra poco l'ha detto. E la buona mamma mi dava il vostro nome da luce a freccia, ma rinfrescamo un poco, forse è parecchio buro. Allora fai bene, dovresti avere il frigo che c'è qua. Per avere la roba sempre fresca. No, aggiudite, mi sei buono qui in fresco. No, gatto, sì, più raffreddola ad Arido, per cui la birra è meglio di politici di dai. Ma un po' con un buon set, 10 minuti che ho corretto, a voglia siete in fresca. Sì. Io ho già poi testa arrogata, il mare dell'attacchi, che a te? Ma c'era qualcuno sotto qua prima? Boh, non lo so. Non lo so. No, avevo abbassato il volume perché si fa ascoltare su 23. Per cui non l'ho sentito. Ho sentito che facendo quelle due chiamate che hai fatto. Ehi, andare. Mamma mia. Speriamo che si dorma stanotte. Perché ieri notte non si buddì a ca. Non si buddì a ca. Sparito, Gema, non è? Oh, qua. Cazzo, non si bucca, no. Se mi sono assentato un poco. A chi no che gli sciumenti? Caldo c'è. Io ho sciolto il cane, adesso ho pulito tutto, adesso me ne rientro nuovamente dentro. Ciao, Gio Marì. Gatto, bisogna avere un condizionato un po' presso, gatto. Per carità. Ma dove è, gatto? Se la metto a pacchi per troppo caldo, in casa sua, io che peggio cura. Dai, caldi di sapore, da gatta. Per carità. Diventiamo abbronzati da un caldo del tuo casa, ragazzi. Bisogna andare a mare per abbronzati. Ma troppo caldo c'è. Ah, pensavo c'era una bella arietta, va, si è abbassato il vento. Boh, aveva un caldo da morire. Vabbè. Riprendi, Manuela, che mi chiudo qua al canile. Ehi, andare. Marino, lo sei sentito, no? Marino, boh, non ha inteso, Gio Mari. Boh, sino alle 23 a cucendi, boh. Attento Marino, Tonino cazzo aveva sei turni. Evidentemente stava facendo commissione, se no gli era entrato. Graziano, da un bebè, un anno senza sentire lui. Un bebè di tempo, cazzo, meno male. Io pensavo che c'era più male, ma alla volta no, che ciò che ha dato via, lo sapevo di battolina che fa, per cui. Vedo che sei entrato alla macco 5 minuti e sei pagato un poco là. Sì, ma poi già adesso con questi dolori che c'ha pure, con le nel disco come me, è fastidioso, è fastidioso. Io sono con gas da agosto, sono Gio Mari, di l'anno passato, senza bassi già, prima Ciro Manzano, da via Pascoli, finza l'emiciclo, in via l'Italia, Zescio, e mi faccio tutte quelle zone lì, a piedi. Ah, va, non ve la posso a passare, da Noghi alla Goma. Ciao Marì. Ehi. Attesa Graziano si ha comprato lo scooterone a tre ruote, tipo motocarrozzella. Addirittura. Oh, comunque, dopo tanto tempo sono riuscito a sentirlo, anche se non ci ho parlato, lo stavo ascoltando, però ero impegnato, non potevo entrare. Comunque ha fatto piacere che l'ho sentito, vuol dire che sono un po' più bene, vai. Sì, già l'hai sentito, la voce sembra già stia bene, vai. Ma detto si è comprato lo scooterone, così esce ogni tanto a farsi un giro, solo ha detto che ha tre ruote. Boh, a me vai una motocarrozzella, no Manuel? Cazzo, ma non è che davvero vai con cazzo, vai a fare viaggi di ferrovie, no? Ah, non li gioco io. Non li gioco. C'è chi sa che fa tre ruote, una moto è quella che c'ha, due ruote davanti e una dietro. Chissà, non si ribalta, forse se l'ha pigliata a Baghiscio, ma non ribaltassi. Mamma mia, è molto vero, a me non mi sono mai piaciuta quella moto così. O ti piglio una moto, o ti piglio una macchina. Ma no, io sono d'accordo con te, la moto è fatta a due ruote, chi sta la moto con chi ti due ruote a danazzi, è tutta particolare, boh, non piace neanche a me, sinceramente. Però, sai, magari per una persona grande è più sicura, mi capito? Forse ce l'ha pigliata a Baghiscio. E tu sempre ce l'hai la moto, chi c'è elettrica, Giomarì? Oh, l'ho fatta, crena se te ferma, non l'ho usata mai, l'ho provata solo qua dietro. No, l'ho fatta, è già un paio di mesi, no, Manuel? No, basta, non ne facciamo niente, avevo paura a posarmi in alto, no. Altra senza, poi mi compravo a me il magazzino, così che me l'ha fatta vendere Emanuele, l'amico suo, per cui non mi è sembrata vero, l'ho buttata fuori. Prima avevo la bicicletta elettrica, e ho venduto la bicicletta a coso, come si chiama? Un amico di Bombolo, di Bombolo. E mi arrabbia già molto, ma no, non è per me, no, ma non è per me la moto. E Graziano deve essere capitato di stare a moto che a elettrico, a tre ruote. Beh, so, dici, se la giovisse un altro, pure i sassari, dici. A tre ruote, due a Zareggio e una ad Aranzi. Non lo so se è elettrica, non me l'ha detto. Ha detto che ha tre ruote. Sinceramente va bene perché a Romanco è più sicura, capito? Magari di Vemino a Ponta Rubini e Caggia Cabatera, invece quella rimane ferma, anche perché c'ha il freno, capito? C'ha il freno a mano, tu la Veme la rimani dritta, non ha problemi. Non so se è elettrica o normale, non me l'ha detto. Adesso quando rientra glielo chiediamo. Gappa, e andato ce n'ero vento me, Manuel, non c'è un filo di vento, cazzo, ma dimmi tu, la notte c'è motore a punti a capo, aria condizionata, ventilatori, romanzano, me ne c'è cubicente, bacco, montone il garraggio, fatemi questa settimana, poi si rientra alla base. Ma se te lo sto dicendo che fa se l'ha vinta di l'aria, no, che pensa lo zero si mi lava lo culo, ha fatto questi due costurati di vento ansura, ma no che balò, aria non entrava nel manco, avanti si è fermato di tutto lo vento, si è dovendo asciumare. Caldo c'è caldo, il vento è caldo, e attenzione che da giovedì, adesso la temperatura è scesa, siamo sotto i 30, 29 oggi eravamo, 29, quasi 30, dai. Ma da giovedì comincia ad ora 37-38 gradi, e i venti sono tutti da sud, quindi scirocco, vento caldo, libeccio, bella rottura di cazzo, ragazzi. Ui, mamma mia, speriamo di no, perché cazzo io questo caldo non lo sopporto più. Tra cazzo e dolore che non posso manco camminare, siamo belli che fatti. Bubu, ciao Mari. No, c'è cari dolori, che non ha dolore, tutti l'avemmo, più o meno. Ma lo che cosa fai? Una prodina ci sono cucini e si cocchi fuori. Cazzo, ma con un poco di sereno biglia la luce, cazzo. Se non fate caso pure la luce, i nomi pure la luce fate caso, e io secondo me la condizionatore acceso. Più faccio la ventola, no, la porta. Però forse un poco me la infecco con un condizionatore, da poi rifiuto il condizionatore ma sento la ventola. E sono tutta la notte così. Tomari, il condizionatore fa male, io ce l'ho. E fa male, io mi sto alzando sempre a mal di schiena, cosa che mi era passata. E quindi evito, attacco il ventilatore, lo voto girano, non fisso, girendi e manda un po' d'aria, capito? Se no condizionatore non si può dormire con il condizionatore, fa troppo male Giomarì, non c'è niente da fare, fa male alle ossa, capito? È aria viziata, non va bene, bisogna rinfrescare la stanza e poi bucate, giuro che tanto può durare un'ora e poi si butti a capo e quindi siamo sempre in balia delle onde. Perché non hai il condizionatore tu, Manuel? Ui, condizionatore. E cos'è quel condizionatore? Non ne ho, no. Non ne ho, c'ho un ventilatore, ma è come che non vi raggio. Cazzo, vado nel casino e non la faccio manca il rumore con tutto il casino di fase. Cacchè di piglio mi si gocca in giacchino. Anche per condizionatori, se non mangia pane imbalsamato. Ma pigliate come ci facevo a incubare, sono attaccato alla povera a pezzare la padare, io. E non ne fa rumore, è silenziosissimo. E poi è già in asco, per cui non è che fa di male assai, capito? Per cui non ho, è in mezzo, e già ripeti, ma evidentemente quando tocca un bene, ripeti, mi zappo, con un solo, però se c'è di me, ecco, si tira da altri di me, anche diversamente lo si può fare, no? Che se lo accendi un condizionatore prima a rinfrescare, cade un macello, cade di chissà come da bacchettare, cazzo, poi ha dolore, dolore che sì, magari non nasce, però un cazzo lo so fumare maledettamente, non mi supporto. Pare che mi manca l'aleno, così che ogni tanto mi ripeto, ma faccia lo mancore, oppure mi cocchi così, così, a bruno lo mancore, già entra un poco d'aria ogni tanto, dai. E passo la notte così, va a battere all'altra. E tu dici c'è cucini, Manuè, una prata si muore. Ma devi cattare, ti sei dato di qualche cagnalare, va la sopra. ma magari ho fatto, l'importante è che la casa cosa con i canneggianti mi danneva. Babba via. Lì è pericoloso, no. No. Già lo so, quella zona, lì ci abita anche... Forse dove sei tu, che c'hanno quei giardini fuori, qualcuno ho visto che ha fatto anche la verandina, c'ha il gazebo, anche tu non fa la gazzetta e la miera. Lì sei tu, Manuè. Ehi, dove c'è l'attore Alanverde? Affianco l'attore Alanverde. E dove abita il fratello adesso? Ehi, esatto. Io abito a fianco, c'ho l'altro giardino, a fianco. E dove abita il fratello Ettore? È lui che... Che la moglie è professoressa, cioè maestra, ma non me ne ammetto. Maestra, E già è lui, lì sono andato io con la buona Ettore. E c'è un bel giardinetto, Mi ricordo come si chiama fratello Ettore, carrozziere. C'è un bel giardinetto, Un periodo va via la gazzetta e la miera. A volte da zia mi dottore, io andiamo al fratello, ma se mi si transia in chi mi dici un caso, ho detto, ascolta, mi non aggiudi a sauna io, o entriamo dentro mi giocandendi. Poi ho visto che nella torta quella lì ha fatto un gazebo, cos'è che fa? Ehi, ha fatto una tettoia, una veranda ha fatto adesso. Che gabbina non ce n'è più. Tutto abusivo. No, è abusivo, la potevi mettere. Ma si può mettere all'interno? Se la ci picchia. A me ne avevo dato poco di punti di palli per fare una veranda, ragazzi. Porca l'idea. No, la puoi mettere, basta che lui c'ha l'ente popolare, la puoi mettere, chi l'ha detto che non la puoi mettere? Claro, fa che faccia le storie, stai dicendo. Ehi, Giomani. Ma faccia, faccia una bella ferandina, si sta bene, anche di giorno c'è il fresco, cazzo, è tranquillo, là. E poi con un ventilatore potrebbe andare anche bene a pranzare lì, magari all'ora di pranzo, va bene così. E la notte si può stare anche bene lì. Già l'ho vista Giovanni, l'ho vista. Sono passato l'altro giorno lì, l'ho vista. Però prima quando vedo che c'è gazzetta e la miera, stavo entrando anche Vittore. C'era un caldo da morire, ha detto no, io. Avevo dato una mano anche io a smontarlo, non mi ricordo come si chiama il fratello di Dittore o Manuè. Giancarlo, e c'ha lo stesso cognome mio. Sì, c'ha lo stesso cognome tuo. Certo che sì, Giancarlo, il carrozziere, bravissimo carrozziere. Vabbè, no, già è bella. Lì si sta bene, Gio Marino. Ma infatti, io se fossi stato a Sassari con una cosa del genere... Per il cane sarebbe stato ideale, ma Sassari il cane non ce l'ho dentro casa, capito? E quindi tocca stare sempre fare lì, c'è un giardino grande, enorme da noi, sto dentro, è tutto recintato, però non sei mai a casa tua, sei sempre in condominio, quindi Se invece una cosettina così, aprivi la porta, te vai fuori a giocare, vai. Ed è più tranquillo, capito? Comunque ha fatto un bel lavoretto lì, Ha fatto anche un bel colatto, cazzo. Non c'è avuto le uva, cazzo. No, l'ha piattato bene, cazzo. Almeno si è accavato di sa cabine che ha costruttore. Cazzo, ancora mi lamento. Però un caso di città clima che ha acceso il cristo mio. E questo Giancarlo si è fatto la peradina, ha detto, è ben pulito, e insomma l'ha piattato bene, dai, ha fatto un bel lavoro. Ma lì perché abitava Tore? Io a Tore l'ho conosciuto alle case dei ferrovieri, ma lì Tore abitava prima Giomari. No, lui prima, io lo conosco da molto tempo, a Tore, quando abitava via Matteucci. Abitava all'inizio quando lui ha fatto il traviere, dopo si è passato alla cooperativa, dalla cooperativa, però veniva anche qua quando c'era la madre, che il padre era morto prima della madre, veniva sempre, insomma faceva giornate intere che abitava qua, vai, però se andava a casa sua via Baldetta. Ah, quella era della mamma, quindi dove abita Giancarlo? Sì, era della mamma, sì. Quella era la casa della madre. Che bella quella casa, l'ha fatta tutta nuova Giancarlo. Io ci sono entrato prima di morire Tore. Siamo andati a trovare Giancarlo perché doveva ritirare il vino, Tore. Molto bella, rifinita molto bene dentro, tutta rifatta nuova, una bella casa. Anche la moglie ci teneva a quella casa, per cui se l'hanno piazzata bene, dai, una bella casetta, sì. Già stanno bene, alla fine mi sembra che è in Inghilterra, mi sembra che... E sono soli mi sembra adesso. Sì, sono tanto non lo vedo Giancarlo, ma lo sapevo che il figlio era fuori. E già stanno bene, lui è carrozziere a Predanieda. Prima era in via Cosi, in via Lumberto, una vita da Gosi, come si chiama, non me ne ammento. Una vita lì c'era. Adesso è a Predanieda, ma penso che le manchi poco andare in pensione. Se si non ha pagato con tributi, non si ne hanno pagato, non gioco, però è una vita che lavora. La moglie non so se è in pensione, era maestra, quindi. Così Emanuele, in pensione la moglie Giancarlo, o anche lui è in pensione. Allora, la moglie Giancarlo sta ancora lavorando, non lo so se ne manca poco andare in pensione. E Giancarlo è fermo perché c'avevano poco lavoro. Ed è fermo da tanto, sarà già un paio d'anni. Asciuga. Vedi, però io glielo ho sempre detto, trovarsi un buco piccolino, senza strafare, e mettersi a farle lui, a fare il suo lavoro, perché è molto bravo, ma aveva ferniciato la macchina una volta, una Golf che avevo, era tutta butta male, me l'ha fatta nuova, ma bella, molto bella, è bravo. Sì, da ragazzino che faceva quel lavoro lì, pensa tu. Anche a me mi ha fatto la macchina, la 500, mi aveva ferniciato tutta completamente. E me l'ha fatta nuova. E bravo era, bravo veramente. Allora era via Lomberto lui. Adesso a quanto ho capito l'ho trovato un giorno lì alle poste e stavamo chiacchierando ma penso che sia in pensione mi sembra, se l'ho capito male è pensione, lì erano poco però se n'è andato perché non riuscivo ad andare avanti con quella roba, capito? Ma infatti penso anch'io così perché mi pare che sia più grande di me, sì è più grande di me. E poi ha sempre lavorato, quindi con quegli sgravi che ci sono stati, eccetera, sicuramente ne ha approfittato e se ne è andato. Anche perché se Emanuele sta dicendo che era fermo perché non c'era lavoro, sicuramente è così. Poi vabbè, già lavora la moglie, non hanno grandi problemi, dai Emanuele, già vanno avanti. No, già stanno bene, dai, già stanno bene. Adesso doveva fare questo lavoro qua. Nel suo cortile che doveva aprire, doveva fare un cancello elettrico per entrare le macchine dove c'era la cabina prima. Ah, conto suo? Già ne ha attrezzatura mi Giancarlo, è pieno di roba. Sì, quello sì. È solo che stavo aspettando il coso dal comune se gli facevano fare il permesso per aprire, no? Ah, ecco, ho capito, per entrare lì con le macchine. Vabbè. Non sono da tanto, non lo vedo. Qualche giorno ci vado a trovarlo. Oh signori, dai, è giunta l'ora, le 8:15 sono, io vi saluto perché qua dobbiamo preparare, se no non ci mangia. Ciao Giovanni, piacere avervi ascoltato, ciao Manuel. Se senti a Tonino, salutamelo e chiunque fosse in ascolto, ok? Dai, che vado a cenare. Avanti Giovanni, buona serata a tutti e a domani. Ok, ciao, qua ci sentiamo, va, buon proseguimento di serata. Ci sentiamo, a domani, se tutto va bene. E anche io chiudo, va. Già le 8 passate, per cui ne approfitto. Ciao, qua ci sentiamo. Ma noi altrettanto, va, ci sentiamo domani o ci vediamo domani, va. Alle uscite. Ciao, chiudo. Ciao Claudio, buona cena, buon tutto, dai, ci sentiamo. Ciao Gian Maria, anche a te, dai, già, noi già ci vediamo sempre, dai, a domani. Ciao a tutti e due.